9:29 di lunedì 4 marzo 2024. E solo per un veloce commento su questa notizia francamente incredibile, ma che dice molto dei tempi che stiamo vivendo, e cioè il Comune di Firenze, prima commissione a un importante street artist, Nemos, realizzazione di un murales che dovrebbe rappresentare, fotografare, diciamo, la città in questo momento. Nemos realizza un'opera straordinaria, secondo me, che così magari vi invito ad andare a vedere sugli articoli usciti tra ieri e oggi, ma che, insomma, vi anticipo, riflette un po' gli appetiti dei soggetti privati su quello che sarebbe lo spazio pubblico cittadino, e quindi questa sorta di centro storico trasformato in un registratore di cassa. Io l'ho trovata un'immagine molto molto efficace, poi anche realizzata in modo molto efficace. Adesso però usciamo per un attimo dalla valutazione che probabilmente non mi compete, ma semplicemente qui si tratta di un artista che ha esercitato il proprio diritto, cioè quello di essere libero, ed è esattamente questo quello che non va. Infatti il comune ha cancellato il progetto, ma quello che è più incredibile è che non ha dato nessuna spiegazione. Ecco, cioè, la responsabilità pubblica di dare una spiegazione, quella sì, è invece del comune. Insomma, sappiamo bene che ormai alcune città italiane che, tra mille virgolette, funzionano, chiuse virgolette, in un certo modo, c'è una forma di negazione in partenza dell'idea di poter rimuovere la premessa, e cioè che possa funzionare solo in quel modo. È quello che non si discute. È la versione moderna del There's no alternative di Margaret Thatcher, no? Che significava invece appunto non discutere le conclusioni ma le premesse. Ma poi soprattutto quello che io trovo incredibile è che se davvero c'è qualcuno lì dentro che si occupa di comunicazione, come tutto questo non venga visto in anticipo come un clamoroso autogol, perché oggi, se parliamo di quest'opera, dell'opera di Nemos, e se siamo curiosi di andarla a vedere su internet, magari anche dopo aver ascoltato questo podcast, è proprio per questa decisione della pubblica amministrazione locale. Quindi, insieme, diciamo così, alla spregiudicatezza, che dovrebbe farci pensare anche a una certa furbizia, e invece c'è proprio una totale incapacità di capire quello che succede quando fai le cose, che ti si ritorce puntualmente contro.